Ad alta voce. Paolo Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L'innominato voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla carrozza a ordinare al nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di Don Rodrigo. Ma un no imperioso che risuonò nella sua mente fece svanire quel disegno. Tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine, riducendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo come un tradimento, che so io, come un gastigo, fece chiamare una sua vecchia donna. Era la vecchia nata in quello stesso castello da un antico custode di esso e aveva passata lì tutta la sua vita. Ciò che aveva veduto e sentito fin dalle fasce le aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni. E la massima principale che aveva attinta dall'istruzione e dagli esempi era che bisognava ubbidirli in ogni cosa, perché potevano far del gran male e del gran bene. L'idea del dovere, deposta come un germe nel cuore di tutti gli uomini, svolgendosi nel suo, insieme con sentimenti d'un rispetto, d'un terrore, d'una cupidigia servile, s'era associata e adattata a quelli. Quando l'innominato divenuto padrone cominciò a far quell'uso spaventevole della sua forza, costei ne provò da principio un certo ribrezzo insieme e un sentimento più profondo di sommissione. Col tempo s'era avvezzata a ciò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orecchi. La volontà potente e sfrenata di un così gran signore era per lei come una specie di giustizia fatale. Ragazza già fatta, aveva sposato un servitor di casa, il quale poco dopo, essendo andato a una spedizione rischiosa, lasciò l'ossa su una strada e lei vedova nel castello. La vendetta che il signore ne fece subito le diede una consolazione feroce e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tal protezione. Da allora in poi non mise piede fuori del castello, che molto di rado, e a poco non le rimase del vivere umano quasi altre idee salvo quelle che ne riceveva in quel luogo. Non era addetta ad alcun servizio particolare, ma in quella masnada di sgherri ora l'uno ora l'altro le davano da fare ogni poco, che era il suo rodimento. Ora aveva cenci da rattoppare, ora da preparare in fretta da mangiare a chi tornasse da una spedizione, ora feriti da medicare. I comandi poi di coloro, i rimproveri, i ringraziamenti erano conditi di beffe e di improperi. «Vecchia!» era il suo appellativo usuale. Gli aggiunti, che qualcheduno sempre ci se ne attaccava, variavano secondo le circostanze e l'umore dell'amico. Ecco lei, disturbata nella pigrizia e provocata nella stizza, che erano due delle sue passioni predominanti, contraccambiava alle volte quei complimenti con parole in cui Satana avrebbe riconosciuto più del suo ingegno che in quelle dei provocatori. «Tu vedi laggiù quella carrozza?» le disse il signore. «La vedo», rispose la vecchia, cacciando avanti il mento appuntato e aguzzando gli occhi infossati come se cercasse di spingerli sugli orli dell'occhiaie. «Fa allestir subito una bussola, entraci e fatti portare alla malanotte, subito subito, che tu ci arrivi prima di quella carrozza. Già la viene avanti col passo della morte? In quella carrozza c'è, ci deve essere, una giovine. Se c'è, di al nebbio il mio nome che la metta nella bussola e lui venga su subito da me. Tu sarai nella bussola con quella giovine e quando sarete quassù la condurrai nella tua camera. Se ti domanda dove la meni, di chi è il castello, guarda di no, disse la vecchia. Ma, continuò l'innominato, falle coraggio. Cosa le devo dire? Cosa le devi dire? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta a codesta età senza sapere come si fa coraggio a una creatura quando si vuole? Hai mai sentito affanno di cuore? Hai tu mai avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in quei momenti? Dille di quelle parole, trovale alla malora, va. E partita che fu, si fermò alquanto alla finestra, con gli occhi fissi a quella carrozza, che già appariva più grande di molto. Poi gli andò al sole, che in quel momento si nascondeva dietro la montagna. Poi guardò le nuvole sparse al di sopra, che di brune si fecero quasi a un tratto di fuoco. Si ritirò, chiuse la finestra e si mise a camminare innanzi e indietro per la stanza con un passo di viaggiatore frettoloso. La vecchia era corsa a ubbidire e a comandare con l'autorità di quel nome che da chiunque fosse pronunziato in quel luogo li faceva spicciar tutti, perché a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti alla malanotte un po' prima che la carrozza ci arrivasse e, vista l'avvenire, uscì di bussola, fece segno al cocchiere che fermasse, s'avvicinò allo sportello e al nibbio, che mise il capo fuori, riferì sottovoce gli ordini del padrone. Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse e rinvenne da una specie di letargo. Si sentì da capo rimescolare il sangue, spalancò la bocca e gli occhi e guardò. Il nibbio s'era tirato indietro e la vecchia, col mento sullo sportello, guardando Lucia, diceva: «Venite, la mia giovine, venite, poverina, venite con me. Che ordine di trattarvi bene, di farvi coraggio!» Al suono di una voce di donna, la poverina provò un conforto, un coraggio momentaneo, ma ricadde subito in uno spavento più cupo. «Chi siete?» disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia. «Venite, venite, poverina!» andava questa ripetendo. Il nibbio e gli altri due, argomentando dalle parole e dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei quali fossero le intenzioni del signore, cercavano di persuader con le buone l'oppressa a ubbidire. Ma lei seguitava a guardar fuori e, benché il luogo selvaggio e sconosciuto e la sicurezza dei suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso, apriva nonostante la bocca per gridare, ma vedendo il nibbio far gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, si storse, fu presa e messa nella bussola. Dopo c'entrò la vecchia. Il nibbio disse agli altri due manigoldi che andassero dietro e prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone. «Chi siete?» domandava con ansietà Lucia al ceffo sconosciuto e deforme. «Perché son con voi? Dove sono? Dove mi conducete?» «Da chi vuol farvi del bene?» rispondeva la vecchia. «Da un gran... fortunati quelli a cui vuol far del bene. Buon per voi, buon per voi! Non abbiate paura, state allegra, che m'ha comandato di farvi coraggio. Glielo direte, che v'ho fatto coraggio!» «Chi è? Perché? Che vuol da me? Io non son sua. Ditemi dove sono, lasciatemi andare, dite a costoro che mi lascino andare, che mi portino in qualche chiesa, oh, voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine!» quel nome santo e soave, già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo, né forse sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù e vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, salir di corsa il nibbio. Quando questo fu in cima, il signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. «Ebbene», disse fermandosi lì. «Tutto a puntino», rispose inchinandosi il nibbio. «L'avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo, un urlo solo, nessun comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro, ma...» «Ma che?» «Ma, dico il vero, che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso.» «Cosa? Cosa? Che vuoi tu dire?» «Voglio dire che tutto quel tempo, m'ha fatto troppa compassione.» «Compassione? Che sai tu di compassione? Cos'è la compassione?» «Non l'ho mai capito così bene come questa volta. È una storia, la compassione, un poco come la paura. Se uno la lascia prender possesso, non è più uomo.» «Sentiamo un poco come ha fatto costei per muoverti a compassione.» «Oh, signore illustrissimo, tanto tempo piangere, pregare e far certocchi e diventar bianca bianca come morta, e poi singhiozzare e pregar di nuovo, e certe parole...» «Non la voglio in casa costei», pensava intanto l'innominato. «Sono stato una bestia a impegnarmi, ma ho promesso, quando sarà lontana...» E alzando la testa in atto di comando verso il nibbio, «Ora», gli disse, «metti da parte la compassione, monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e va di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi, ma subito, perché altrimenti...» Ma un altro no interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. «No», disse con voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. «No, va a riposarti e domattina farai quello che ti dirò.» «Un qualche demonio accostei dalla sua», pensava poi rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate. «Un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge. Compassione al nibbio. Domattina di buon'ora, fuor di qui costei, al suo destino e non se ne parli più.» E proseguiva tra sé con quell'animo con cui si comanda a un ragazzo indocile sapendo che non ubbidirà. «E non ci si pensi più. Quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a romper la testa con ringraziamenti, che non voglio più sentir parlar di costei. L'ho servito perché ho promesso, e ho promesso perché è il mio destino, ma voglio che me lo paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco.» E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso e quasi per pena, ma gli si attraversarono di nuovo alla mente quelle parole